la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, Oscar Giannino vi saluta, vi ricorda l'indirizzo della trasmissione, la versione di Oscar, @radio24.it, 800 24 00 24 per telefonare e 349 238 6666 il numero per gli SMS. Oggi, e ve lo presento tra poco, la puntata è dedicata a una testimonianza, di un imprenditore che ha fatto una scelta molto pesante, cioè ha venduto tutto quello che aveva, casa compresa, e praticamente per difendere l'azienda, ci faremo raccontare cosa fa e come è diminuito il numero di dipendenti, però per difendere l'impresa praticamente si è trasferito all'interno, passa tutta la sua giornata lì, ma ha venduto tutto. E la domanda che io vi faccio, al di là del caso specifico, è se sia comprensibile, giusto, una via d'uscita, cioè dobbiamo veramente ridurci al fatto di vendere tutto pur di andare avanti. Riguarda mica solo gli imprenditori, cioè riguarda i lavoratori, chi non ha più lavoro, chi non ha una famiglia a cui appoggiarsi con il patrimonio messo da parte, con i risparmi delle generazioni precedenti. E a me ha colpito molto questa storia quando l'ho letta e ho deciso di dare il microfono al protagonista che adesso ora arriva e vi racconta. Ma è un problema generale questo, non è un problema che parla solo della caparbietà di chi ora vi spiegherà la sua storia. E vendere tutto per andare avanti è la condizione nella quale si trovano centinaia di migliaia di italiani. Ecco, io vi chiedo di telefonare su questo tema e prima di presentarvi l'ospite anche una riflessione a margine. Abbiamo fatto molte puntate dedicate al dissesto idrogeologico e un ascoltatore mi ha segnalato nelle Marche un programma che è stato deciso dalla regione Marche, sul quale lui secondo me a buon diritto non è d'accordo, ed è un tema molto delicato perché anche qui stiamo parlando di guerra tra i poveri oramai. Cioè le Marche hanno deciso di finanziare con 340.000 euro un programma per la manutenzione dei fossi, quindi esattamente le cose di cui abbiamo parlato in questi giorni, all'origine poi delle alluvioni e così via. È riservato ai giovani tossicodipendenti e, per carità, solidarietà e sostegno a chi ha questo problema, sotto naturalmente o adeguate guide, la supervisione di agronomi e così via. E ogni partecipante al progetto si danno 400 euro a titolo retributivo. Il nostro ascoltatore nel segnalarlo mi chiede: ma col problema che c'è in tutta Italia che crolla e frana, i 400 euro invece che fare appello solo ai volontari come è avvenuto a Genova e dovunque, non sarebbe questa una strada ma per mettere a disposizione un po' per tutti e non solo, per carità, senza mettere in discussione il problema del sostegno sociale di questo particolare programma ai tossicodipendenti? Io, a dire la verità, la penso come il nostro ascoltatore, e non perché neghi la necessità di programmi di sostegno sociale e di reinserimento ai tossicodipendenti, ma perché mi pare un po' insensato, di fronte all'evidenza dei fatti, alle vittime, ai danni di queste settimane, che a misura di questo tipo si ricorra solo per il sostegno e l'inserimento di chi ha un problema conclamato. Qui il problema conclamato è non solo e non tanto, e comunque quello nessuno lo nega, dei tossicodipendenti. C'è un problema generale italiano su questo, e quindi se ritenete diteci anche come la pensate su questo argomento. Ma veniamo all'ospite della nostra giornata, all'imprenditore che ci pone con la sua storia, la sua scelta, la sua caparbietà, la questione generale: vendere tutto per andare avanti. Ecco, è con noi Daniele Mazzuccato, è un imprenditore del vetro, e stiamo parlando del vetro laddove ha fatto la storia della vetreria dall'Italia e in tutto il mondo, quindi Murano per capirci, nella laguna veneziana. E io lo ringrazio di essere con noi. Buon pomeriggio Daniele Mazzuccato. Buonasera a tutti. Allora, ci spiega innanzitutto che cosa, a cosa è andato incontro la sua impresa in questi anni e la natura quotidiana della sua scelta. Beh, sono andato incontro a quello che è successo alla maggior parte degli imprenditori o dei piccoli e medi imprenditori italiani. o delocalizzare o rimanere in Italia. E devo dire la verità, visto il fatturato di molti che sono riusciti a rimanere in piedi nel settore del vetro, io avrei scommesso che lei avrebbe deciso per delocalizzare. Guardi, devo deciderlo ancora nel 2008, quando è iniziata la crisi, dovevo avere il coraggio di chiudere tutto e trasferirmi all'estero. E invece lei ha fatto un'altra scelta. E invece ho creato debiti, perché in 6 anni di crisi sono fatti solo debiti. E per far fronte a quei debiti? Ho venduto tutto, ho sacrificato anche le mie giornate, perché passo dentro il giorno al lavoro e alla notte, perché la notte prima avevo un fonditore che sarebbe colui che fa il vetro per il giorno successivo e toglie i pezzi che sono stati fatti, va bene, e devo farlo io per risparmiare 70.000 euro. Quindi lei ha sistemato il letto, la cucina, insomma lei sta nella, nella vetreria. Da 20-25 metri quadri, ho la mia cucina, il mio letto, la mia televisione, la mia radio. E non si è mai pentito, posso chiederle, di questa scelta? Sì, sono pentito, sì. Solo che nel 2008 tutti i vari politici che si riempiono sempre la bocca, che decantano tanto nel Made in Italy, invece di darci una mano ci sabotano, va bene. Ripeto, devo andarmene via nel 2008. Poi ti dicevano, a fine anno ti dicevano, all'inizio dell'anno c'è la ripresa, all'inizio dell'anno ti dicevano, a fine dell'anno c'è la ripresa. Così siamo andati avanti 6 anni. E la ripresa? Ma io sto ancora in piedi, ma quanti hanno chiuso? Sì. E quanti non hanno il coraggio di dire queste cose? Lei è stato costretto, naturalmente, vista la crisi che c'era sul mercato interno, anche a diminuire la manodopera ai dipendenti. Eravamo in 35, adesso siamo in 7 praticamente. Posso chiederle una cosa? Nei rapporti umani con questi 7 e anche con gli altri che non ci sono più, il fatto che lei abbia compiuto questa scelta e stia lì notte e giorno, ha cambiato qualcosa? Ha migliorato qualcosa? Ha peggiorato i rapporti? Anzi, ringrazio i dipendenti che mi sono rimasti, perché alcuni sono riusciti a portarli in pensione, va bene, perché gli mancava poco. Certo. Altri hanno cambiato mestiere, va bene, ma ringrazio anche i dipendenti che lavorano avanzando mesi di stipendio, perché l'accesso al credito non è più possibile. Se vai in banca a chiedere 10.000 euro ti dicono portane 20 che poi dici te li presto. Scusi, devo rispondere a un ascoltatore, tale Pietro, che mi dà del buffone, perché io invece di parlare delle cose positive che ci sono nel paese parlo solo di tragedie per fare solo terrorismo. Pietro, il buffone sei tu, se non hai capito la condizione in cui sta il paese, cioè alcuni milioni di italiani, reddito pro capite meno 14% e centinaia di migliaia di piccoli imprenditori. Scegliti la radio che ti dica che va tutto bene in Italia, perché te la meriti, Pietro. Io non rispondo mai agli insulti, ma questo è ingiustificato, perché noi non facciamo terrorismo. In questo caso, indicare la scelta di un imprenditore che non se n'è andato, resta lì e ha venduto tutto, a me sembra che sia una cosa positiva, Pietro. Se non lo capisci, cambia la tua zucca, perché è vuota, caro Pietro. E adesso puoi anche reinsultarmi, perché non ti risponderò. Allora, caro Daniele, nel frattempo... guardi, vorrei rispondere una cosa anche a questo, sì, caro amico Pietro, che dico solo che a Murano, ancora 10 anni fa, c'erano 2.000 operai. Appunto. Adesso non ce ne sono 300, ecco, che lavorano il vetro. Appunto, ma il problema è che la gente crede, esatto, i dati di fatto. La gente crede che parlare di questi dati di fatto sia fare terrorismo, pessimismo. Io penso che sia guardare in faccia la realtà, perché vogliamo trovare una risposta, non perché ci piace dire male. Però, detto tutto questo, di quanto voi fate? Quanto resta in Italia e quanto va fuori? Il 95% della mia produzione va fuori dalla comunità europea, non dall'Italia, fuori dalla comunità europea. Che è la realtà, insomma, in questo settore. Lavoriamo forte in Medio Oriente, Estremo Oriente, in America si lavoricchia, ma in Italia e comunità europea sono due mercati persi. Allora, intanto c'è un ascoltatore, Vincenzo da Roma, sentiamo qual è la sua opinione. Vincenzo. Sì, buonasera Giannino e complimenti per la trasmissione. Senta, io non condivido la scelta dell'imprenditore, perché secondo me è stata una scelta sbagliata se fatta in Italia. Però non condivido neanche che dicano lo Stato non mi ha aiutato, perché secondo me non bisogna aspettarsi aiuti dallo Stato, cioè dagli altri, da noi, ma bisogna aspettarsi che lo Stato non tolga quello che ognuno di noi riesce a produrre. Vincenzo, il problema è che lo sai che la tassazione sul reddito commerciale di imprese in Italia è del 60%. Io sono libero professionista, sulle tasse sono incavolato nero, ecco, le dico solo questo. Però io penso che ci sia proprio un problema culturale in Italia. Italia. Tu dici, tu dici ci aspettiamo troppo dallo Stato, ho capito bene? No, no, no, no, lo Stato non dovrebbe prendere invece che preferisco, detta così preferisco. E elargire e fare l'altruista Bravo. Con i soldi degli altri. Bravo. Non dovrebbe prendere, su però questo siccome sono d'accordo. È più facile donare che non prendere dal punto di vista del consenso, ecco perché si fanno le operazioni, gli 80 euro esatto, di redistribuzione discrezionale per così dire esatto, va bene Vincenzo. Aspetta, aggiungo un'ultima cosa, sembrerebbe che sia per essere depenalizzato il furto anche se per gli importi minori, questo è il sintomo che in Italia della proprietà privata frega niente a nessuno, frega niente a nessuno, che è uno dei tre diritti umani, è fondamentale, è un diritto naturale, la vita, la libertà e la proprietà, diritto naturale, Vincenzo, solo che siamo in minoranza ormai a pensarlo così. E torniamo tra 60 secondi con la storia di Daniele Mazzucato, imprenditore del vetro murano, che ha venduto tutto per difendere l'azienda e quello che riusciva a fare dei suoi dipendenti. Vende all'estero con una piccola forza produttiva che è rimasta, grande orgoglio, e dice però è sempre più complicato. Due piccolissime osservazioni. Oggi l'ennesima strage in Medio Oriente. Oggi c'è stato un assalto a Gerusalemme a una sinagoga con dei morti e con l'accetta uccisi. Io penso che Hamas, quando incita la gente ad andare nelle sinagoghe e uccidere alla cieca, dia l'idea di considerare gli uomini solo dei boia, e questo non c'entra niente, come ognuno legittimamente può pensarla su Israele, i palestinesi, i diritti conculcati da una parte e dall'altra, eccetera eccetera, però la modalità di queste stragi alla cieca, entrando nelle sinagoghe e uccidendo chi prega, è una roba terrificante. Seconda cosa, ci avevano promesso la rivoluzione del merito nella pubblica amministrazione, abbiamo fatto molte puntate sulla riforma della PA, continueremo a farla perché come sapete anche su questo ci sono i decreti attuativi. Leggete oggi sul Messaggero, andate sul sito, lo trovate, la notizia per la quale troverete la descrizione di come anche quest'anno, appena stato deliberato, si daranno i premi per il merito ai dirigenti di Palazzo Chigi, esattamente come negli anni scorsi, al 99% di loro, e il bello è che basterà a ciascuno di loro mandare una mail con una proposta, una qualunque proposta, leggete sul Messaggero se credete che sia una esagerazione mia, per portarsi a casa un altro bonus aggiuntivo di 5.000 euro. Una mail, 5.000 euro. La mia considerazione è che se mandassimo noi le mail a Palazzo Chigi di giusto commento di una roba di questo tipo, una mail uguale 5.000 euro in più al dirigente, ci manderebbero i carabinieri. Ecco che come vengono mantenute le promesse. E non c'entra il colore del governo per me. Di cosa vogliamo parlare? Del comune di Olbia, che un anno fa è stato anch'esso distrutto, 19 morti, non distrutto, ma insomma 19 morti per un'alluvione. Anche a quel comune un anno fa fu promesso, come ieri Del Rio, la sospensione del patto di stabilità. Il sindaco di Olbia, oggi lo trovate sulla Stampa pagina 3, intervistato, dice sì, la stessa promessa, peccato che dei 50 milioni che avevo in bilancio me ne hanno stoppati 45 su 50, promesse di governo. Il governo era diverso, non era quello di quest'anno, però stiamo sempre a battagliare con la pubblica amministrazione. Quanto ai premi dei dirigenti della PA, quelli restano uguali invece, mentre invece agli altri poi si stringe la cinghia. Allora, Daniele Mazzucato, un'altra domanda. Nell'intervista che io ho letto, per cui l'abbiamo chiamata, lei ha anche ricostruito che dall'estero le sono venute anche proposte personali di venire, di essere coperto da un mucchio di soldi. Com'è successo? È successo perché negli anni buoni, diciamo, fino al 2007-2008 facevo fiere all'estero, a Dubai e anche in altri stati, e ho fatto mai un nome, una clientela affezionata, e alcuni, sentendo le problematiche che sono in Italia per lavorare, mi hanno proposto di lavorare all'estero, dall'Iran alla Slovenia alla Repubblica Ceca e all'Austria. E lei ha sempre detto tipo da 20.000 euro al mese netti, sì, certo, no, non 20.000 euro al mese netti per portare le nostre conoscenze dove lì sono apprezzate, e invece qua passi per evasore, per inquinatore, per sfruttatore. Lei dice anche nella sua intervista: non ho il coraggio di tradire l'Italia. È ancora questo paese, nella sua esperienza, qualcosa per cui vale la pena combattere così? Sì, è una speranza, perché se tutti se ne vanno chi rimane qua? Bravo, Lo so. Forse se ne deve andare via qualche politico, o forse tutti i politici che promettono mantengono. Allora, sentiamo Marco da Pistoia. Marco, come la pensi? Certo, volevo darti la solidarietà per... No, non la merito, io faccio il mio mestiere, ma no, io non rispondo agli insulti, ma dico semplicemente che però parlare della realtà di chi sta in queste condizioni non c'entra niente con voler fare terrorismo politico, secondo me è guardare in faccia gli occhi. Comunque Marco, scusami. Certo, sì, perché secondo me bisogna affrontare i problemi nella realtà delle cose. Qui invece ci si vuole raccontare che le cose vanno bene quando in realtà non vanno bene. Questa è una nazione che ha bisogno di una profonda riforma, perché come è l'esempio di questa persona qua, non può andare avanti così che uno Stato continua a chiedere, continuando a drenare risorse senza rimettere in campo e senza far ripartire le aziende, le piccole e medie aziende, senza far ripartire la macchina industriale italiana, perché sennò questo Stato continua a impoverirsi e finiremo tutti male. C'è bisogno proprio di gente che ha voglia di spingere, come fa questo interlocutore, e che abbia voglia di investire in Italia, ma nello stesso tempo ci vuole uno Stato che si renda conto che a questo punto c'è necessità che faccia il suo lavoro, cioè quello dello Stato di aiutare le aziende, di aiutare la gente e non di fare solo propaganda elettorale. Grazie Marco, rispondo anche agli ascoltatori che dicono che ho dimenticato il palestinese impiccato ieri. No, non dimentico le vittime, assolutamente palestinesi. Ho già detto che la mia condanna verso chi entra nelle sinagoghe e uccide con i macete non c'entra niente col giudizio che legittimamente ciascuno di voi è giusto che abbia su quella terrificante storia pluridecennale tra Israele e Palestina e rappresentanza. Altra cosa è continuare le catene ogni volta di uccisioni alla cieca nei luoghi di preghiera dicendo è colpa tua per quello che è successo ieri. Così secondo me non c'è giudizio diverso che tenga. Queste sono cose di pura belluina concezione di strage, tutto qua. Dopodiché ci sono anche le vittime di Zale, dell'esercito israeliano, ci mancherebbe altro. Dico però che entrare nelle sinagoghe e ammazzare la gente, come entrare nelle moschee e ammazzare la gente, come fa ISIS nei confronti tra sunniti e sciiti, per me è una concezione del tutto non umana né della storia né della politica. Adriano da Como, come la pensa Adriano dell'argomento di cui stiamo parlando col nostro ospite Daniele Mazzucato? Adriano. Buonasera, senta, io volevo fare innanzitutto i complimenti a lei, anche se ci siamo già trovati in un'organizzazione qui a Como che lei era venuto dagli artigiani. Però... Ecco, poi dopo sono solidale con lei sulle parole che ha detto quel nostro amico di prima, e poi volevo intervenire un attimo sulla questione. Io sono un artigiano e ho 52 anni e porto avanti la mia attività che ho preso da mio padre. Fatica quanto? Tanto? Fatica ce n'è sempre, però voglio dire una cosa: noi mettiamo, oltre alla voglia di lavorare, sì, come diceva il signore, sì, mettiamo anche i nostri capitali non è che ce li hanno regalati prima, no, ce li sono accumulati e lo Stato ne prende troppi. Dobbiamo chiudere, grazie al nostro ospite Daniele Mazzucato, continuate con il 24, appuntamento a domani.